Radio. Becco, ora, Becco. Ehi, Lillo, buttaci una pasta che è pronta. Ok, che condimento vuoi? Oi, Marcoli, buongiorno, buona domenica. Ciao, Manuele, tu avevi premuto poco fa. No, faccio già adesso. Sì, allora c'è qualcun altro all'ascolto. E allora, ancora mi devo uscire dallo sonno, mamma mia. Per carità, come mi copri, Emanuele? Sto usando un apparatino che era fermo da un po' e ho messo il mic amplificato. Come va? Benissimo, radio Super 5, bella chiara, un pochettino di reverbero, di eco, bellissima, una radio abbastanza buona, chiara. Credevo che entrasse qualcuno domenica mattina modulare, ogni tanto entrava Giulio di mattina, poi Natalino, buonanima, la mattina ogni tanto faceva Capolino, vabbè, non vedi nessuno, stiamo diventando pochini, dai. Lui, sciapete, io me ne sono alzato, ho fatto una notte, me ne sono alzato a preparare un po' di roba da mangiare per mezzogiorno. E ho acceso a vedere chi c'era, ho sentito di nulla e poi mi ha risposto tutto. Io non ho più sentito da parecchio, che non sento più Tonino, ma il baracchino ce l'ha ancora. Sì, ce l'ha, io l'ho sentito ieri, ce l'ha sempre, solo che dice ghiaccio e non c'è mai nessuno. Aspetta, ripeti, Manuele. Sì, ce l'ha. Ah, vabbè, però magari anche lui chiama, non vede nessuno e chiude. E alla fine è così. Va bene, mamma mia, io che dorma poco, che dorma molto, mi sveglio sempre tutto suonato. Cioè, non è un sonno bello ristoratore che ti svegli fresco e riposato, sempre ti svegli e come mi alzo devo andare muro. Il cambiamento del tempo, anche il cambiamento di stagione. Ehi, ma questa è roba di tutti i giorni. C'era il sole fino ad un attimo fa, adesso vedo che si è coperto. E vabbè, il tempo ancora non è stabile. Comunque la primavera è non dico alle porte, ma quasi, dai. E giorni fa ha fatto un bel caldo. Ti ricordi 2-3 giorni fa c'erano, mi pare l'altro ieri, roba di 21 gradi all'ombra. Già lo so, c'erano 24 gradi dove vedo io. Sì, praticamente certi giorni è come che fosse già primavera, però poi il giorno dopo si sconcia, piove. Guarda che ha piovuto roba sporca ieri, terra, ha piovuto terra. Scirocco, mi ascolti tu a me, Marco Lì? Bene, tu arrivi segnale 8, apparentemente Santiago 8, questo è un po' secco anche. No, non è detto, questo forse è meno secco di altri, e la radio è buona pure. La radio, il microfono normale, l'antenna si è attaccata al balcone, figurati. Però rispetto a una volta hai migliorato, una volta eri 7, 6.5-7, ti ricordi, mesi fa, che certe volte la propagazione magari ti copriva, invece ha migliorato, quindi non è male il segnale. Non ho mai toccato niente, sempre così. Oh, un attimo che mi assento un attimo, Marco Lì. Fai pure. Prova. 1, 2, 3, 4, 5. Sì. Già esce bene. Prova. 1, 2, 3. Allo. Chi è allo? Bonjour. Allora Daniele, come va? Buongiorno Marco, mi ha ascoltato, tutto bene? Mi è stato a Trabacco, fate le cose domestiche, adesso ci stiamo riposando 2 minuti prima di preparare il pranzo. Via, a Trabacco anche domenica mattina. Io sono da ieri al lavoro, fino stamattina alle 8. Ma è un lavoro notturno? Io faccio le 24, faccio le 12, ma che lavoro al 118, quindi i turni sono questi. Ma cos'è, roba di vigilanza? Cos'è? Panetteria, cos'è? No, 118 faccio, no. Ah, ma volontariato risulta? O siete stipendiati? No, ma stipendio, ho finito il volontariato, non muovo neanche un dito. Ok, ha fatto capolino Emanuele. Per il resto mi pare di non aver sentito nessun altro. Brava, ma la vostra colazione, ma qual è la mia modulazione? C'è un digitale, ci avevi, se non sbaglio, quello è. No, questo è un altro rispetto all'altro giorno. È sempre un presidente. L'altro giorno non so cosa stessi usando. Sì, la maggior parte sono tutti apparecchietti digitali. Gli unici normali sono i 3009, mi pare. Roba del genere, dai. Sto usando un President Richard con il suo eco e un microfono amplificato messo a metà, dai. E penso una cinquantina di watt massimo è proprio. Capito, aspetta, va bene. Bella, mi piace, mi gusta. Anche questo ecco leggero che c'è, questo repertolo bello che c'ha, va bene. Non disturba, no? Poi mi sono messo l'autoascolto, che appena appena mi sento, non molto, ma se non fischia, se l'altro fischia, e quindi è al minimo. Faccio un paragone, mi guarda, così è senza eco, 1, 2, 3, 4, 5. Sono belle tutti e due quelle modulazioni, però la seconda, cioè la prima, come ho sentito l'origine, è bella di più. Gli dà quel tocco in più, dai, è così. E anch'io devo decidere cosa cucinare stamattina. Intanto ne mangiamo sempre un po' più tardi, non mangiamo all'1, mangiamo alle 2, 2:30. Va bene. No, allora devo già cosa c'è anche la coppa d'affare, stiamo viaggiando, fare la commissione, devo fare quello se cosa. Va bene. Tanto è sempre il solito tram tutti i giorni. Sì, alla fine è il solito tram. Ok, aspetta, prova. Vabbè, mentre parlo non mi fa vedere i picchi qua, perché è lento a salire lo smitter, quindi mentre parlo picchi non è vero. Se faccio un fischio prolungato oppure un'ola, sì, sale appena. L'importante è che la modulazione non si abbassa. No, in caso, va bene subito Marco, va bene, sì, a picchi 9.5 e 9.10, sì. Va benissimo. Mi chiedo se alzando, vediamo col mic a manetta, dimmi se cambia qualcosa, se fa effetto stanza, roba del genere, se si è alternata soprattutto, dimmi, senti un po'. Aspetta Marco, c'è il piccolino che sta a togliere, ho capito solamente se fischia, no, va bene, tutto come era prima, se sollevi Marco è un po', insomma, non buonissima. Sì, io sento un po' di alternata nel monitor, appena. Vediamo se tocco il metallo. Meglio metterlo a metà, va. Sì, hai fatto la verità, va bene, però alternata, qua da me non se ne sente. Tutto a posto, vai, ciao. Non ho nessun problema. Sì, l'ho rimesso com'era, dai. No, il locale la sento, appena appena nel monitor la sento. Il monitor del baracchino stesso. Questo qui è solo MFM, non è quelli con bande laterali, c'ha MFM, poi le cose base, trasmissione, c'è la potenza, mic gain, RF gain e altre fesserie così, dai. Le classiche impostazioni di baracchini, ciao. Questo magari se lo mette in macchina ha più watt, questo anziché 4 ne ha 13 in AM e mi pare una quarantina in SSB, ma in SB, in FM, di suo non ha bisogno di... Qua invece lo sto pilotando con 3 watt, 3 watt di portante muta, 4 modulati e il resto lo fa la scarpetta. Cavariara, bene veda. Sì, sì, sempre, vabbè, un po' di effetto stanza, un po' rimbombante, vabbè. Quello dipende dalla strada, perché ho un cantone grande, cavolo, con quella fine lì. Devo prendere i pezzi, diciamo, per queste piovi sopra, che noi usiamo quando siamo tutta la famiglia riunita, diciamo, che siamo un po' in tanti. E qui adesso, piano piano, sto cercando di arredata, diciamo, con il recupero della vecchia cucina che avevo. Vediamo se è rientrato Manuele. Attenzione Manuele, lei domenica mattina è un po' spento, da poca roba. Ieri non l'ho sentito nessuno, ieri che è sabato. E vediamo se stasera entra qualcuno. Bene, ci facciamo due chiacchiere, se no pazienza, ci dedichiamo ad altro. Ieri sera verso le 5, sì, vediamo che sia 3-5, le 6 e mezza forse. C'era Claudio, Tino, Vanni di Alghero, abbiamo fatto due passaggi, però non avevamo sudito, eravamo sull'11 mi sembra, o 12, non ricordo. Ah, vabbè, io la lascio qua come monitor, praticamente qua sempre con lo squelch, squelchate in modo da non prendere disturbi. Vabbè. Che la variava? Aspetta, provo a passare questa cosa, se andata le stelle. Ok. Guarda, adesso va meglio, 1, 2, 3, 4 e 5. Sì, siamo lì, dai. Non è niente male. Ho abbassato e stava salendo, non so perché, le stelle. Aspetta che attacco la ventola, che qua sta scaldando la cosa. Lì già. Sì, bastano pochi passaggi e l'aiutino scalda. Scalda anche parecchio. Mi pare di sentire anche odore di surriscaldamento. E quindi è meglio lasciarla attaccata. Magari sentirei un po' di vento, la mia aspetta. Ma è roba impercettibile, Marco. E anche si sente. Devi stare proprio zitto in silenzio e non parlare, se no non disturba. Sì, comunque ho notato questo tipo di amplificatori tendono a scaldare subito, nonostante ci abbia le alette di raffreddamento, ma non bastano, ci vuole una ventola, se no continua a scaldare diventa una cosa incandescente, figurati dentro i transistor quanto ne soffrono. Invece io metto qua una ventola alimentata, appoggiata, proprio messa a elastico, per non metterla fissa, non per non mettere i viti, e la lascio però sempre alimentata, in modo che raffredda anche quando non parli. Come c'ho il mio, l'ho preso. Certo che il mio, quando schiacci, che la trasmissione aumenta di velocità, poi, come molli, rallentano. Non è che facciamo una prova rapida in FM per capire se va tutto bene. Ehi, Amato, vai in FM, vai. Ecco, 1, 2, 3, FM, ci siamo, dovrebbe avere ancora più watt qua, sì, sicuramente più watt, l'importante è che la modulazione rimanga chiara e cristallina. Allora Marco, aspetta un secondo che non vorrei che sia come c'ho il filtro della terna, Azione e caratta. Prova a fare un altro passaggio. Ecco qua, 1, 2, 3, 4, 5. Modulazione FM. La tua è splendida, cioè in AM è buona quanto vuoi, ma in FM è spettacolare. Cioè, dovremmo modulare sempre FM, mi. Ho capito, può essere una telefonata in poche parole. La tua invece è buona, però è caratta di presenza. Ah, leggermente più bassa, Sì, questo c'ha l'FM, diciamo, stretta. Abbastanza stretta. Per esempio, le radio amatoriali hanno 5 kHz di deviazione, no? In trasmissione. Questa ne ha 2, essendo un baracchino. 2 kHz massimo. E naturalmente non la posso misurare perché non ho lo strumento che misura la deviazione. L'avevo anche migliorata, perché appena lo compri questo apparato era proprio basso i radio in FM. Gliel'ho messa, diciamo, al massimo, però più di 2 kHz non va di. Perciò sto parlando vicino al mic di taglio, in modo da aumentare un po' la modulazione. Cavagava. Ho capito. Però vabbè, è sempre buona, Marco, è come la M, però ti manca quella presenza, insomma, che ti fa sembrare come una telefonata, sembra ci sia un filtro, un qualcosa che ti tappi. Pensa che mi pare che i trimmer non ce ne siano nemmeno qua. O comunque sì, anche se ci sono, qua la deviazione FM, così come la M, la regoli da un menu di servizio. C'è un menu di servizio con dei numeri, con dei valori, tu lo metti al fondo scala, diciamo, e migliora leggermente, dai, va bene. Tu hai anche aumentato di radio, ho dovuto abbassare il volume, pensa. Però la chiarezza è sublime. Lo so, Marco, perché qua io vado con in AM vado con una quarantina di watt, dai, qualcosa di meno. Qua me ne sto sparando 100. Guarda il segnale qua. Così mi sta arrivando 9,40, Marco. Ah no, vabbè, però vabbè, conta che quello Schmitter amatoriale in FM segna di più, invece qua è uguale alla M, capito? I baracchini AM FM segnano uguale, diciamo. Sì, sarei aumentato un po' per via dei watt. Vediamo un po' il segnale. Guarda, tolto l'aumento sarai qua 9,30, 9,20, una cosa del genere, dai. Comunque 8,5, 8,5. Da 8 a 8,5, diciamo, magari non varia tanto, capito? Metti che ne hai 40-50 in AM, raddoppi, sì, mezzo Santiago in più, torna i conti, dai. Sì, confermo, però stare sempre a regolare AM, FM, appunto non ha, cioè in AM, e poi quello che spara quando cambia FM, AM, bande laterali. Vediamo se c'è qualcuno che vuole entrare avanti. No, mi era sembrato di vedere un segnale. Avevo sentito un attimo di silenzio. Boh, non ho guardato lo Schmitter però. Io non ho sentito nessuno, Marco, la verità sì, magari. E più dalle tue parti che dalle mie. Che arriva meglio. Va bene, comunque da, prova fatta, ripassiamo in M, da. K di Rosmetro. Ecco qua, 1, 2, 3, 4, 5. Eccoti. Va bene. E poi questo baracchino mi pare di non averlo mai provato in macchina. Un giorno che esco a fare un giro lo piazzo e vediamo se va, sperando che non abbia rientri di RF o roba del genere. Perché con la macchina vecchia non c'erano due apparati che avevano rientri di RF, fischiavano. Chissà la cosa intende, ho provato di tutto, ho provato la massa base magnetica, la massa effettiva, la massa riportata, però non c'era modo. Li ho alimentati sia dalla batteria diretta, sia sia dare cenni sigari, però non riuscivo a farli andare. Niente, la volevo sapere. E chi sa cos'è che hai turbata? Pregati invece tutti a posto. Sì, sì, gli altri a posto. Due apparati ve lo facevano. Mi pare il... Uno era il 9009, PCRT 9009 che aveva anche più watt. Ho provato a abbassare i watt, nulla, non c'era verso. Secondo me il cavo di alimentazione è troppo lungo, troppo lungo. Contando quello che arrivava dalla batteria, che era abbastanza lungo, arrivava sotto il sedile, più il cavo dell'apparato che era... anzi, quell'apparato lì c'era molto lungo il cavo, secondo me il rientro veniva da lì, non c'è altra spiegazione. Ehi, mai dovrei provare a fare la misura degli altri e vedere un po' cosa succedeva, qui per eliminare questo dubbio. Sì, poi vabbè, siamo diminuiti di numero e ho lasciato perdere, tanto lo porti il baracchino in macchina e non trovi mai nessuno, non puoi fare prove, non puoi fare il girettino e modulare, come era una volta. Quello, non l'ho messo in macchina, è sempre lì, che non c'è sul 45 riusciamo a farlo. Aspetta un secondo, ma te li prendo subito che stanno chiamando giù. Nel caso ritieniti salutato se non ci sentiamo. Ciao. Eccoli Marco. Tornato, che io avevo detto, nel caso che non ci sentiamo ritieniti salutato, ma eri già andato. Ehi, ti ho sentito, vado già giù. Brava. Un attimino, non c'è la caldaia, l'ho fatta ripartire. Sì, caspita, anche la radio scalda, dietro è bella tiepida, abbastanza tiepida, però non in zona finali, dall'altra parte, sicuramente è la parte del modulatore, dove c'è il transistor di modulazione. La temperatura, le uova ti cucini, ma... No, non così caldo, però è bello tipico, da uno scaldamani sembra, ecco. Quando c'è più freddo già va bene, appoggi le mani e ti riscaldi, scaldamani. Sì, qua non stiamo mettendo nemmeno stufa, lo sai. Non stiamo usando un granché di stufa, giusto la sera, magari quando ti devi spogliare, metterti in pigiama per andare a dormire, però per il resto stufa niente, perché questo non è inverno. Cioè, io mi ricordo anni fa, quando c'era l'inverno, certi inverni, anni fa, si battevano i denti, cioè avevi proprio freddo in casa, fuori scendeva tipo 3 gradi la temperatura, ma questo inverno per me era primavera, freddo vero, cioè io non ne ho visto quest'anno. E ne conferma, guarda, sono a mezze maniche dentro casa, pensa tu, non c'è riscaldamento accesi, qui fa bene, c'è caldo, anche se uscito fuori, e qua si fa bene, sono in alto, e lo stesso, tanto di sasso, insomma, di poco, ma quando picchia, Poi, vabbè, qua avevano fatto anche il cappotto al palazzo, quindi un po' isola dall'esterno un po' di più, ecco, e magari anche quello, quindi stufa poco e niente, qua usiamo stufe o a gas o elettriche, abbiamo anche quella Zibro, ma quella proprio ce la siamo dimenticata, non sto nemmeno comprando il liquido combustibile perché non serve. Meglio così, dai. Allora, avevo riparato sul carburante, sull'elettrico, su tutto. No, io faccio a gasolio, cioè quando era gasolio e faccio la coppia che riscalda la vento, quindi per tante cose devo prendere il gasolio. Ma ho fatto un carico più o meno d'inverno, ho preso, mi sembra, 600 litri ne ho preso prima dell'inverno e poi ne farò un altro carico prima di quando spegniamo di scaldare, quindi diciamo che va solamente una battaglia per l'estate. frega. È come se in casa, tipo villetta unifamiliare o che ne so, una palazzina con più abitanti. No, io abito, diciamo, non familiare, una casetta dove c'è tutto giù, le camere da letto, cucina, tutto quanto, e poi c'ho il piano di sopra, dove c'ho quest'altra cucina, agrocultura, diciamo, un altro stanzone vuoto, diciamo, dove c'ho la caldaia. E l'altro pezzo è stato con la porta e chiuso la soffitta. Si sta meglio, dai. Sai, in condominio sono c'è altre spese magari che non ti interessano, però sei tenuto a contribuire. È un macello, dai. Guarda, se voglio accendo, insomma faccio quello che voglio, non c'è nessuno che mi obblighi. E va bene. Ho sentito un bip sottofondo, non so se tu hai ascoltato, ma... No, vediamo. Avanti sul 10, chi vuole entrare? Io non sento nulla, eh. C'ho lo squelce giusto da levare il QRM. Chiara, già va bene, non lo so che fosse, magari qualche preparazione, non lo so, ma passo, sento solamente il bip e buh. Va bene. Antonello, già si è sentito. Ah, Pomponio, no, di mattina, raramente lo sento la mattina, più pomeriggio oppure di sera. Cara, dopo se c'è tempo da ne ho, se non devo fare niente, e c'è voglia soprattutto, ci butto fuori altri 2 metri di palo che c'ho qua dentro, interrati nel sottotetto, quando sono al dopo l'antenna cosa succede? Che ora è? Mezzogiorno e 10. Quasi. Comincio a organizzarmi per dopo, mi metto, mi preparo, vento gli ingredienti e tutto, per non fare tutto all'ultimo. Tanto vedo che non entra nessuno. Vabbè. Anch'io mi canto. Inizia a mettere l'acqua per la pasta e tu se magna che noi invece mangiamo presto. Mi sa che faccio qualcosa in bianco o tipo tortelloni, sai, quelli ripieni freschi con la panna e poi polpette, qualcosa del genere, senza sugo, però le polpette fritte, una cosa del genere, stavo pensando. Va bene, Daniele, io stacco e così comincio piano piano a organizzarmi per il pranzo e ci sentiamo quando capita qui. Ehi Marco, va bene, non c'è problema, anch'io lo stesso mi stacco e inizio la via del pranzo. Va bene, grazie al QSO, e se qui ci aggiungiamo più tardi alle prossime, dai. Buon proseguimento, ma un saluto anche agli eventuali ascoltoni. A dopo Marco, se coincide. Ciao Daniele, ciao. Buon proseguimento di giornata. Altrettanto, grazie Marco. Daniele, c'è ancora.